Eri la gomma, io la matita. Ma ti sei accorta che eri la mia amica? Come un livido che resta dentro, che ti assomiglia. Sei diamante sull'asfalto, Lolita. E che ti vorrei bene, promettilo al mare. Che se tutto va storto, continui a sognare. Con due ali giganti e un cuore maleducato. Perché hai solo 20 anni e un sorriso spezzato. Dimmi di te, anima pura. Come si fa senza paura a restare leggera, a giocare pesante? Come la luna sfida la notte. Lolita, Lolita, ma che ti ha ferita? Con quegli occhi grandi che ti fanno innamorare. Tu con il cielo in tasca e non hai voglia di volare. Ce la farai sempre e guarderai oltre. Venere dalla tua parte, ma mentre balli come stai, Lolita? Lolita, dimmi dove sei. Lolita, Lolita, come stai? Eravamo padrone del mondo e ora sono catene. Perché ti sei spostata dal centro, cosa aspetti a tornare? Che qui tutto un casino, ogni futuro è passato. E poi c'è sempre qualcuno che dice se sei giusto o sei sbagliato. Dimmi di te, donna futura. Ehi, come si fa a non prendersi cura? Lolita, Lolita, da chi sei scappata, Lolita? Con quegli occhi grandi che ti fanno innamorare. Tu con il cielo in tasca e già non credi più all'amore. Ce la farai sempre e guarderai oltre. Venere dalla tua parte, ma nello specchio come stai, Lolita? Lolita, dimmi dove sei. Lolita, e non serve più nessuno che ci può salvare. Perché il freddo ci ha insegnato che un abbraccio può bruciare. E che ti perdi se ti accontenti di piacere solo agli altri. Lolita, Lolita, Lolita, puttana è la vita. Cerco i tuoi occhi nella mischia, come cristallo in una rissa. Tu che dentro al buio hai inventato il coraggio. Credi di poter morire e vivere di testa tua. Ma domani l'incertezza dei fiammiferi sono solo caramelle, ma ci ho creduto. Salvami, ci siamo solo sotto, ma il mondo non si è rotto. E abbracciami se te lo chiedo, Lolita, io mi sento già stanca. Il sangue non sbaglia, voglio te come prima, la mia amica mi manca. Ce la farai sempre e guarderai oltre. Venere dalla tua parte, ma tu, Lolita, come stai, Lolita? Lolita, dimmi dove sei. Lolita,